mene vagu mi se tebe. Ja sam bio to, vaza fora kursa na ja. Da, da, da. Da Oggiano. Che bello punto, porca madrena da Oggiano. Che tiro massacrare, eh? Brava. Vuoi che ti io da Oggiano? Vuoi che io? Ma hai sempre detto che è vero. Oh, hai sempre detto che è sei buono. Non lo vuoi. È piccolo della voce. Oggi la fare. Di giù con la famiglia. Data Cesare quello che è di Cesare. Poi due. Chi la fosse? Due la fai. Tile fotini, Andrea. La tiola ha sbagliato con i gol. E oggi è proprio questa poi a venire anche se. Fai gol caretto, dai. Andiamo a venire sì. Questo è fuoco. Corretto la e sei su venu! E sei su venu, sì! Ma hai pazienza! Dai, e non stiamo a sgarro, dai! Là, con le due ove, gli sei! Sei su venu! Marca, Vittorio! Marca, Marca! Seven up! 30! Segna, Vittorio, segna! Altri 4! 30, 4! Quattro, quattro! Ma fino a 40! E dai, tu! 4 e 3 e 7, niente, niente, 4 e 3 e 7, 3 e 7, 3 e 7, ho perso uno. Prima Vittorio fa il piatto. 7, Vittorio, non fa come andare a piatto. Che la faccia a te, mi avevi? Vittorio. Ma che cosa sta male? Dai, Tarasso. Quando ti sei con me. Dai, fare, eh. Vai, scappa. Putto fa apposta, ti vai. Oh, merda, te ne. Lui, oh, è fermo fuori. Voilà. Pigiare il Gianco. Gianco. O che l'è russo? Sì, che paga appunto. A me che l'è russo? Era russo. Era russo. Ma sta fermo, ti avrega, sta fermo. Era russo. Oh! Oh! Aia! Mi ha dato la zero. Ma colpa di tu che giochi sempre con lei per forza. Ah sì. Ma sa dietro adesso. Seguite, ho la roba, ecco, seguite. Ti senti che sono dito? Ma seguite che giochi sempre con lei, dai. Senti un sciano che parlo. Ecco, va bene, vieni un tuo amico, fermo. Tu che te ne bravo! Ho detto a me, temi, eh! E va bene! Vedi mica che te, fermati! E va bene, te fermati! Il fenomeno non si accade fra all'estero, che tu sai nel sito, ma che? Ti parli! Guardi che ti ho stimolato, ne fa un quarto! Ammettimi come ti metti! Ma tu sto fermo, ma tu che bene! Se tieni con un mio, ti sto fermo! A mia chi ne fa, tu lì! Mi fa fare, dai, vieni a punto! Dai, vieni a punto! Ma che si fa neanche? Insomma. Dai, che ho devo? Tutta fa vento, ma per niente. Io non ho bisogno di niente. Bro Romano. Punto rosso? Addio, siamo agibili. Due. Lui così vero. Dammi il vaghe. Ma porco calma. Non sai mai. Cosa da però? Là. Fagli anche un po' russi. Ma ti metti a credere quando ti parlo? Non mi credi quando ti parlo? Ti fermo, ma non è vergogna? Vai avanti. ma ora la roba, ci racconti, vedi così che fa. Non mi ha fatto niente, siamo qui, non mi ci viene. Non mi ha fatto niente. Vabbè che guagna io sempre, Paolo, ma se non lo guagni. Se non puoi, ma che è che dà la porta? Roma, dai, mi chiedono un po'. Devo fare, però. Bravo Romano! Che siamo giorni! Che sta lunga, che sta lunga! E questo niente, ma ti gioca tranquillo! Lascia che ti curta! Lunga! Si è curta proprio pulita che manca! Lascia che ti curta, benigno, te ne puoi fare! Noi mettiamo tempo di guerra, quello degli appoggi! Lì! Romanti, merda!